Questa è più la terra mia e più tutti quei cristiani che la coltivano. Questa è più Marugio mia. Lumimmo più terra Rebel Sound. Vedi quanto è bello lo paese mia. Paese mia. Quello mare che lo bagna e l'estate che hanno piti l'ora guarria. Vedi quanto è bello lo paese mia. Sì, lo paese mia. Quello mare che lo bagna e l'estate che hanno piti l'ora guarria. Siccamo mo stu viaggio tra la vigna e la ulivi, con l'ardore di la terra che per forza quasi intivi, con l'umile la guardara che si butta uno fuori e di rubuzzo via l'acqua vivere. Io sti cosi no, no, no, non l'ha già vissuti, di sirma di mamma e di nonni ma l'aggiunti si ca tutta la vita loro fuori anna passata, di fatia si spizzano vi guadagna la giornata. Mi ricordo ancora l'ardore che di la cantina chianava fino a tra casa sin ogni mattina. Era fizzo di miero, gusto quene paesano, cantra lì capasuni, filmintava chiano chiano e lì cannezzi di sotto a soli, puro qui dividia. Quelli fichi spaccati, casi ca una mezzadia, lì tiepi so cangiati e con loro li sapori. Ma domi giro giro di Marugio sento l'ardori. Vedi quanto è bello lo paese mia. Quello mare che lo bagna e l'estate che non viti l'ora guarria. Vedi quanto è bello lo paese mia. Quello mare che lo bagna e l'estate che non viti l'ora guarria. Lo sapore di sta terra non si può proprio scordare. Noni, noni, anni passano, noi crescimo e spittamo sempre lunatari. Tipo ci duzzi e che na la panza di sti buoni cristiani. Oh sì, tra di rumele tocca se leccono pure le mani. E di vicini si sciugava con lu pallone in mezzo agli strati. Un giorno sini e l'altro non spicciava tutto alla scuffati. E la sera andini fuggimo dopo che lo campagne d'erumo suonato e di redu l'angolo spittamo. Quasi a lo padrone un cazzato. Vedi quanto è bello lo paese mia. Quello mare che lo bagna e l'estate che non viti l'ora guarria. Vedi quanto è bello lo paese mia. Quello mare che lo bagna e l'estate che non viti l'ora guarria.